giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da parte la richiesta di più controlli, dall'altra le comunità che spiegano di essere in regola con tutti i regolamenti esistenti. In mezzo ai minori non accompagnati sono frequenti i casi di violenza e le esplosioni di rabbia all'interno delle strutture e chi le gestisce lamenta la mancanza di luoghi ad hoc per le situazioni di fragilità psichica. Solidarietà ai civili di Gaza, appoggio alla Sumud Flottiglia, la flotta di imbarcazioni che sta navigando verso Levante per portare cibo e medicinali a Gaza. A Trieste stamattina l'USB ha organizzato un presidio al varco del molo settimo del porto. Primo giorno dopo la rivoluzione che in Italia ha tolto il test di ingresso per il numero chiuso a medicina, tanti i dubbi e tante le speranze fra le giovani matricole intercettate stamattina all'Università di Trieste. In 555 frequentano i corsi del semestre di prova per medicina e in 92 quelli per odontoiatria. Porte aperte di Gianni Amelio, il film protagonista dell'anteprima del Festival I Mille Occhi a Trieste. Poi, dal 12 settembre, un programma che spazia fra i più noti cineasti, L'eredità di Franco Basaglia e il premio Anno 1 al regista serbo Želimir Zelnik. E a illustrarlo nel nostro GR il fondatore del festival, Sergio Germek Germani. Il natisone, il gorgoglio delle sue acque e le note di una chitarra e di una fisarmonica, un viaggio nella natura accompagnato dalla musica è quello che per una settimana propongono due cantastorie, Leo Virgili e Paolo Forte. Il cammino parte da Platiskis nel cuore di Taipan alle 15. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. In apertura del nostro giornale radio, la gestione, delicata, non certamente facile, dei minori non accompagnati, ospiti delle strutture, delle varie strutture della nostra regione. Giovedì in prefettura a Udine si terrà una riunione del Comitato Ordine Pubblico su questo argomento. Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha convocato un tavolo per l'ordine e la sicurezza giovedì 4 settembre. All'ordine del giorno la gestione dei minori stranieri non accompagnati in provincia. Una richiesta in tal senso è arrivata nelle ultime ore anche dal sindaco di Udine, dopo l'ultima rissa alla Casa dell'Immacolata. L'assessore regionale alla sicurezza, Roberti, ha chiesto ai comuni più controlli. Il consigliere di Forza Italia, Novelli, ha domandato che vengano convocati in audizione in comune a Cividale presidente e direttore del Civiform. Il comune peraltro è socio della struttura che oggi ospita 99 minori stranieri. I controlli già ci sono e sono frequenti, ci dice la direttrice Chiara Franceschini, che è anche coordinatrice di queste comunità a livello regionale. Servono a verificare il rispetto dei requisiti che hanno portato al rilascio delle autorizzazioni da parte dei comuni e dell'accreditamento regionale, secondo il regolamento regionale che dà accesso ai fondi. Controlli su spazi, numeri di educatori, i tipi di attività previste. Secondo le comunità più piccole, il modello di strutture con elevati numeri di ospiti non funziona. Secondo queste ultime, invece, essere più strutturati permette di avere equip multidisciplinari a disposizione. Quest'estate, in sede di assestamento regionale, è stato approvato un emendamento del consigliere di centrosinistra Bullian che pone il limite di 49 unità di minori stranieri non accompagnati come condizione per dare il parere positivo alle nuove strutture. Quello su cui tutti concordano, Franceschini, ma anche Bohème, presidente della Casa dell'Immacolata, e Giovanni Tonutti, presidente di Oikos, è che i problemi sorgono quando sono inserite in queste strutture i ragazzi con problematiche di tipo comportamentale o sanitario. Le comunità terapeutiche per minori stranieri con problemi di carattere sanitario non esistono in regione. Finora non c'è stato dialogo con l'assessorato alla salute su questo punto, ha detto Franceschini. E per i ragazzi con problemi di tipo comportamentale, secondo Gianfranco Schiavone dell'ICS, ci vorrebbe un bando specifico con supporti finanziari maggiori. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A sostegno della Global Sumud Flottiglia, le imbarcazioni che si stanno dirigendo verso la costa di Gaza per rompere il blocco navale imposto da Israele, in diversi porti italiani sono in corso forme di mobilitazione. Stamattina a Trieste è stato organizzato un presidio di 2 ore davanti al varco 4 del porto. Solidarietà per i civili di Gaza e appoggio alla Sumud Flottiglia, la flotta di imbarcazioni che sta navigando verso Levante per portare cibo e medicinali a Gaza. A Trieste la USB ha organizzato un presidio di solidarietà al varco del molo settimo del porto in occasione della giornata internazionale dei sindacati per la pace. Alessandro Perone dell'Unione Sindacale di Base. Questa è un'iniziativa è nata su indicazione della Federazione Sindacale Mondiale a cui aderisce USB. È il primo settembre novembre, quindi l'inizio della seconda guerra mondiale, da lì ci sono iniziative per la pace già da tempo. Questa iniziativa ha il valore di solidarietà soprattutto con la Palestina e con Gaza. La USB osteggia l'uso militare del porto di Trieste. C'è un problema enorme, soprattutto l'imbarco di armi che vanno nei teatri di guerra, sia a Trieste che a Monfalcone. Il professor Sergio Pratali del Global Movement to Gaza, l'organizzazione che ha promosso la Sumud Flotilla. La flotilla nasce da un'iniziativa internazionale che vuole superare l'immobilismo dei governi, che cerca attraverso una missione legale e pacifica di portare aiuto umanitario a Gaza e di rompere l'assedio israeliano. Qui in Friuli Venezia Giulia? Qui in Friuli Venezia Giulia, che è una regione fondamentale, siamo qui al porto non a caso, è una delle regioni insieme alla Sardegna più militarizzata in Italia. Abbiamo industrie come la Defcon 5 piuttosto che Leonardo, piuttosto che la Holding Goriziane, che lavorano costantemente con forniture militari a Israele. Walter Scherk, Trieste, TGR del Friuli Venezia Giulia. All'Università di Trieste sono cominciati stamattina i precorsi per l'accesso alla facoltà di medicina, un sistema introdotto per la prima volta quest'anno che sostituisce i test d'ingresso e il vecchio numero chiuso. Siamo andati a vedere che aria tirava stamattina in Piazzale Europa fra le nuove matricole e i docenti. Il primo giorno dopo la rivoluzione che ha tolto il test ingresso per il numero chiuso è fatto di dubbi e di speranze, ma anche di caccia, dove il cellulare prende per compilare i certificati di presenza. All'Università di Trieste le aule per i 555 che frequentano i corsi del semestre di prova per medicina e i 92 per odontoiatria sono due, una con un professore in presenza, un'altra con videoproiettore. Come nell'ultimo decennio sono in stragrande maggioranza ragazze, quasi il 70%, la provenienza 7 su 10 dal Friuli Venezia Giulia, 1 su 3 da Trieste, gli altri quasi tutti dal Veneto e da altre 13 regioni italiane. Dovranno dare 3 esami, chimica, fisica e biologia, con almeno la sufficienza raggiunta, ma servirà eccellere per accaparrarsi i 210 posti per medicina e i 40 per odontoiatria, anche alla luce dei complicati calcoli per le graduatorie nazionali. Luigi Murena, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche. Sarà una dura battaglia che si giocherà su pochi punti o addirittura virgole per entrare poi a medicina. E gli altri cosa faranno? Chi non ce la fa potrà impegnarsi in corsi di studio di seconda scelta. All'atto dell'iscrizione loro propongono dei corsi di studio di seconda scelta nei quali rientreranno vedendo così riconosciuti i crediti ottenuti nel semestre filtro di medicina. Ma come viene digerito questo cambiamento dagli studenti con la tagliola spostata in avanti? Avremo una preparazione maggiore perché almeno ci saranno le lezioni da seguire, però ancora non lo sappiamo ovviamente. Sicuramente sarà molto più complicato perché saranno esami universitari e non più un test vero e proprio. Quindi io penso sia peggio perché ci sono meno sicurezze. A questo punto l'anno scorso sapevamo già il nostro futuro. Compagna di studi, l'ansia la stessa che attanagliava gli studenti prima del test degli anni scorsi. Si sente meno ora, però sicuramente poi sentirà nei momenti in cui si avrà gli esami, dovremo aspettare le graduatorie. Comunque c'è. Nei prossimi mesi, con più di 600 persone a frequentare i corsi, sarà importante anche organizzarsi per seguire le lezioni. Io e la mia amica siamo partite abbastanza presto da casa per riuscire a prendere i primi posti. Anche per i mezzi di trasporto bisogna organizzarsi, prendere i bus presto, svegliarsi prima. L'università, oltre alle aule, dà anche l'opportunità di seguire le lezioni da remoto per facilitare la frequenza obbligatoria. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per ricettazione un cittadino della Repubblica Ceca trovato in possesso di un ingente quantitativo di profumi, ancora impacchettati e con il dispositivo antitaccheggio, che stava mostrando a un'altra persona in un bar di via Oriani. All'altro soggetto, cittadino kosovaro residente in città, è stato trovato occultato nella cinta un pugnale con una lama di circa 10 centimetri. Pertanto è stato denunciato per porto abusivo d'arma e il coltello sequestrato. Nello stesso giorno il cittadino ceco è stato nuovamente visto in via Toti armeggiare nei pressi di un'autovettura. Si è dunque scoperto che era in possesso di ulteriori 2 scatoloni pieni di confezioni di profumi, cosmetici e indumenti di marca. Cambio al vertice dell'Arma dei Carabinieri di Monfalcone. Da oggi il comando della compagnia Carabinieri passa dal maggiore Davide Franco al tenente Antonio Cerrone. Il maggiore Franco assumerà il comando della compagnia Carabinieri di Cento, in provincia di Ferrara. Il tenente Antonio Cerrone, nuovo comandante, proviene dal nucleo antisofisticazioni e sanità di Udine, dove ha ricoperto il ruolo di comandante dal 2022. Un avvicendamento anche alle stazioni Carabinieri di Capriva del Friuli e San Floriano del Collio. Il maresciallo capo Angelo San Marco, 41 anni, assume il comando a Capriva, subentrando al maresciallo capo Emiliano Castelletti, destinato al comando provinciale di Gorizia. Il maresciallo capo San Marco lascia così la guida della stazione di San Floriano, che dirigeva dal settembre del 2017. Gli subentra il maresciallo Alfredo Acanfora, 28 anni, proveniente dalla stazione Carabinieri di Gorizia Principale. Con quasi 1.700.000 passeggeri previsti a fine 2025, una crescita negli ultimi tre anni del 140%, il Trieste Airport è il secondo scalo europeo di medie dimensioni per crescita. E come sottolinea l'amministratore delegato Marco Consalvo, forse per traffico e per voli supereremo Lubiana. Fino a poco tempo fa, con 1.500.000 passeggeri, la capitale della Slovenia vantava un traffico doppio rispetto al Trieste Airport. Intanto si attesta a scalo più green in Italia, partendo dal 34%, percentuale molto alta per il nostro paese, di viaggiatori che giungono in treno, e dal 70% del fabbisogno energetico autoprodotto con impianti fotovoltaici. Nel 2027 saremo il primo aeroporto decarbonizzato in Italia e fra i primi in Europa. Supereremo il 90% del fabbisogno energetico in autoproduzione, dice ancora Marco Consalvo. E ora diamo uno sguardo al tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, da coperto a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 24 gradi e 5 decimi e mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Gorizia e Udine 24 gradi e 5 decimi, a Pordenone 23 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo e Tarvisio 21 gradi, a Forni di Sopra 19, a Piancavallo 17, a Sappada 16. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolando 12 gradi, sulla costa a Lignano 26 gradi, a Grado 24 gradi e mezzo, temperatura del mare in entrambe le località di 25 gradi. Le previsioni: oggi pomeriggio sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, in pianura e nel tarvisiano variabile, sulle prealpi e in Carnia da variabile a nuvoloso, venti deboli, generale peggioramento è previsto dalla tarda serata, e alla mezzanotte scatta un'allerta meteo gialla su tutta la regione, in vigore per l'intera giornata di martedì. A Gorizia arriva Verde Capitale Go 2025, città dei parchi, settimana della biodiversità, passeggiate nei parchi, conferenze, laboratori per bambini, mostre, attività di animazione, menù tematici dedicati ai prodotti dell'alveare e persino una caccia al tesoro botanica per promuovere parchi e aree verdi del territorio transfrontaliero. Inizia oggi una settimana dedicata al verde a Gorizia e in Nova Gorizia con diverse iniziative. Le due città sono unite nell'ambito di Go 2025 nel valorizzare un grande patrimonio che risale soprattutto all'Ottocento, in cui la città venne definita la Nizza d'Austria, la Nizza dell'impero austro-ungarico, e qui si veniva per villeggiatura, si veniva a riposare anche per diversi giorni o settimane. Infatti ci sono diverse ville di grande valore a Gorizia, proprio risalenti a quel tempo. Siamo con Sasha Dobricic, che per la parte slovena, quella di Nova Gorizia, ha collaborato a questo progetto. Allora, di che patrimonio parliamo? Per definirlo più facilmente parliamo di patrimonio paesaggistico, cioè paesaggio come quel luogo dove natura e cultura per definizione si uniscono. E quando parliamo di paesaggio, paesaggio è uno dei pilastri del progetto Go Borderless, perché appunto paesaggio non conosce confini. Nel paesaggio tutto migra, le persone, le idee e anche le altre specie viventi. Quindi è stata proprio la dimensione paesaggistica che ha permesso, sia dal punto di vista infrastrutturale, a unire queste due città nello stesso scopo di unirsi non solo cross border, ma anche borderless, proprio perché paesaggio appunto può essere definito solo nella assenza dei confini. Qui siamo nei pressi del Parco del Rafut. Che cosa rappresenta questa parte di Nova Gorizia per questo progetto? Noi siamo vicino al Parco di Rafut, che in realtà si collega al corridoio verde cross border che corre da sud a nord, quindi dal punta più nord verso il Solcano a punta più sud verso Saint-Peter, e unisce vari punti storici, giardini, palazzi, paesaggi in una continuità. Quindi l'idea di tutti i corridoi verdi, che sono una delle parti più principali degli interventi di Go Borderless, è di garantire sia la continuità del paesaggio tra le due città, ma soprattutto anche la metamorfosi che quest'anno corre sotto l'idea di una biodiversità, cioè di una convivenza non solo tra gli esseri umani, ma anche con una comunità più estesa di esseri viventi. Gorizia, Nova Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla Sissa prende il via oggi il convegno nazionale della Società di Matematica Applicata e Industriale, che radunerà 300 esperti di modelli e metodi matematici e delle loro applicazioni a problemi industriali, ambientali e della vita reale. L'intervista a Gianluigi Rozza, docente di analisi numerica e calcolo scientifico alla Sissa e presidente del comitato organizzatore. La matematica è ovunque nella nostra vita quotidiana e ovviamente poi anche in quelli che sono processi industriali di una certa complessità, pervade tutto il nostro mondo. Un convegno che vede specialisti da tutta Italia e non solo. Sì, la Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale ha scelto Trieste per questa sua 17ª edizione di questo congresso, sono circa 350 partecipanti. Fondamentalmente da tutte le sedi universitarie italiane, ma ovviamente è un congresso anche che ha un richiamo internazionale, soprattutto europeo, anche grazie al fatto che ci sono dei conferenzieri invitati da tutto il mondo. Focalizzerete i vostri lavori sulle applicazioni pratiche della matematica? C'è chi dice che siamo nel secolo della matematica e ci sono state, ci sono in corso tante rivoluzioni di cui la matematica è un attore protagonista anche in alcuni casi. Pensiamo al calcolo scientifico ad alte prestazioni, alla scienza dei dati, all'intelligenza artificiale, ai gemelli digitali. La matematica sta giocando un ruolo fondamentale e ovviamente le ricadute di queste rivoluzioni guardano soprattutto al mondo delle applicazioni, guardano alla tecnologia e all'innovazione. Qual è lo stato degli studi delle matematiche in Italia, lo stato di salute? La matematica è in salute, sia la matematica teorica sia quella applicata. Di fatto è una disciplina sempre di moda che riesce ad attirare ancora grandi talenti e pertanto da questo punto di vista sicuramente è una disciplina che si presta a contribuire anche allo sviluppo e al benessere del paese. Si investe in matematica? È necessario investire in matematica oppure è una disciplina che ha il vantaggio di non richiedere grandi investimenti? Allora, la matematica teorica ovviamente richiede meno investimento della matematica applicata. La matematica applicata richiede delle infrastrutture di ricerca, laboratori che sono infrastrutture di calcolo, i supercomputer. L'Italia in questo ha fatto un grande investimento grazie al Cineca a Bologna con il supercomputer Leonardo. Non dobbiamo pensare che la matematica non sia una disciplina che abbia bisogno di investimenti, ha bisogno di investimenti di risorse umane e anche comunque di infrastrutture dove i ricercatori possano incontrarsi, possano scambiarsi idee, possono studiare. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. La 24ª edizione dei Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, si terrà a Trieste dal 12 al 17 settembre fra Teatro Miela e Cinema Ariston. Oggi l'anteprima con Porte Aperte di Gianni Amelio, interpretato da Gian Maria Volontè, alle 21 nella Casa del Cinema di Trieste. Sergio Grimek Germani, fondatore del festival diretto da Giulio San Giorgio, ci ha illustrato il programma di questa edizione. Mi fa piacere la coincidenza di oggi con l'anteprima al Giardino Pubblico di Trieste di una delle rassegne di questa 24ª edizione del Festival, che come da edizioni passate collega spesso cinema e letteratura, in questo caso Sciascia, quindi ci sarà un programma di film di Sciascia. Poi ci sarà all'interno il premio anno 1 che viene assegnato a un cineasta importante ma ancora da riscoprire in Italia, ed è il serbo Želimir Žilnik, che sarà presente ovviamente. C'è un programma curato da me di classici del cinema però ancora misteriosi da riscoprire o in copie particolarmente preziose, una copia Technicolor di uno degli ultimi film di John Ford e così via. E poi ci sarà un programma che trae ispirazione dall'esperienza basaliana proprio a Trieste e che si è collegata spesso al cinema con film realizzati da vari cineasti importanti che vanno dall'americano Wiseman all'italiano Bellocchio, al francese Depardon e così via. E all'interno tanti altri piccoli tasselli, e mi sembra interessante anche la seconda edizione del premio Cinema sul cinema, cioè di film realizzati su altri film, su altri registi, all'interno della quale presenteremo opere del grande brasiliano Bressane, un film su David Lynch, un film su Eric Rohmer e insomma tantissime altre cose. Nella pagina sportiva, l'impresa compiuta ieri sera dall'Udinese, la vittoria a San Siro per 2-1 contro l'Inter. Tutti in piedi alla Scala del Calcio ad applaudire l'Udinese, coraggiosa nel primo tempo e granitica nella ripresa. Il vantaggio dell'Inter di Dumfries non fa così male e non apre la porta friulana ad un'altra goleada della squadra di Chivu. Rugnaic ha detto ai suoi di non avere paura e con Baiò e Davis l'Udinese ha le spalle larghe. Il pareggio arriva su calcio di rigore dopo revisione VAR per fallo di mano di Dumfries. Keenan Davis trova l'equilibrio tra forza e precisione e batte Sommer. La fisicità in difesa e attacco è legata da un filo teso da Castrom e soprattutto da Attà, che si inventa la rete del vantaggio dell'Udinese a 5 minuti dall'intervallo. Il francese doveva essere il nuovo leader tecnico in campo, lo sta diventando. Bertola ammonito non è un rischio da correre in un secondo tempo di sofferenza, goglicizze, e la scelta di Rugnaic, che chiede ai suoi attenzione in difesa e un po' di fortuna a se stesso. Ci vuole anche quella per vincere a San Siro e dopo il tiro di Çalhanoğlu fuori di poco, ecco annullata la rete del pareggio di Di Marco per fuorigioco. Centimetri che il VAR cattura mentre l'Udinese prende fiato e tiene intatto il muro difensivo fino alla fine, fino alla parata di Sava su Carlos Augusto. Solo applausi per la squadra di Rugnaic, che regala gioia ai 600 tifosi che l'hanno seguita a Milano. L'impresa è diventata possibile, come annunciato dal tecnico alla vigilia, con coraggio ed energia. Sentiamo Christensen, uno dei migliori in campo. È stata una bellissima prestazione per la nostra squadra stasera. È una partita come stasera, dare la squadra tantissimo in futuro. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per 7 giorni, da oggi al 7 settembre, il Natisone sarà la spina dorsale del progetto Natisa, realizzato dall'associazione Innio, un viaggio a piedi e con gli strumenti in spalla lungo l'intero corso del fiume, dalla sorgente alla confluenza, attraversando confini, comunità, lingue, montagne e storie. Protagonisti di questa performance saranno due musicisti, Leo Virgili in viaggio con la sua chitarra e Paolo Forte con la sua fisarmonica. Oggi il cammino partirà da Platiskis, nel cuore di Taipana, alle 15 dalla chiesa di San Giovanni. Dopo una camminata di 8,5 km si raggiungerà il punto esatto in cui nasce il Natisone. Poi al rientro la performance serale. Virgili e Forte, nell'area festeggiamenti di Platiskis, alle 19 si incontreranno con il coro Nage Vasi. Leo Virgili, che è anche presidente dell'associazione Ignò, ci spiega la scelta del Natisone come protagonista dell'iniziativa. Il Natisone, in quanto fiume, è, per sua natura infrange i confini. Il fiume Natisone poi è con un piede di qua e un piede di là, fra Friuli e Slovenia. E l'acqua, insomma, è la metafora di libertà per eccellenza. Questo percorso sarà un percorso alla scoperta dell'ambiente e anche accompagnato da musica. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sostanzialmente far conoscere un territorio che è sconosciuto ai più e che reputiamo meraviglioso. meraviglioso. L'obiettivo è ovviamente anche far leva sulle bellezze naturalistiche della nostra zona, ma anche sulla complessità e la diversità linguistica, culturale di un territorio molto spesso dimenticato. E questo lo fate con il contributo suo e di altri artisti. Sarà anche l'occasione, insomma, per sera dopo sera abbracciare e ritrovare degli amici e degli artisti molto interessanti, molto importanti, che sono anche espressione della vitalità artistica e culturale del territorio. È una manifestazione per sua natura multidisciplinare, infatti non è soltanto la musica al centro dei nostri eventi, ma ci sarà anche la poesia, la danza contemporanea, una manifestazione piuttosto variopinta delle bellezze anche artistiche di queste zone. A 20 anni dalla morte di Franca Ongaro Basaglia, un libro racconta il suo percorso umano e professionale, evidenziando il contributo portato al processo di deistituzionalizzazione psichiatrica e più in generale al pensiero scientifico e culturale. Ne parlano l'autore Ernesto Venturini, la coautrice Maria Stella Brandau-Gaulart e Sergia Adamo, docente all'Università di Trieste, al Circolo della Stampa di Trieste alle 17.30. Per Trame a Palazzo, appuntamento dedicato al volume La dieta mediterranea in Friuli Venezia Giulia, saggi e percorsi, curato da Ugo Falcone e da Edo D'Agaro. A Cividale del Friuli, Palazzo De Nordis, alle 17.30. Sarà inaugurata oggi la mostra fotografica Le prime 39 regate isontine, che rimarrà aperta fino al 10 settembre, a Gorizia, nella Galleria del Kulturnidom, alle 18. Sono le 12.56 minuti e 30 secondi. Assistenza tecnica di Carlo Morello e Marco Ferrito, collaborazione in redazione di Emma Soliman. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza, l'augurio di un buon pomeriggio, a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.